troverai per il male che hai fatto alla gente, e guarderai lo specchio e ti riconoscerai. Hai sempre risolto tutto con i soldi, ma ora non potrai. Penserai alle persone che hai rovinato, ti accorgerai di essere anche tu omologato. Ti guarderai allo specchio e non ti riconoscerai. Sarà troppo tardi, ma che tu te ne accorgerai. Ti sentirai strano al mattino quando ti sveglierai, come in un blackout. Non vedrai più niente, penserai di essere impazzito veramente. La sofferenza di chi non ce la fa più era difficile da comprendere quando eri su. Davi sempre consigli, avevi sempre certezze, i problemi degli altri erano solo sciocchezze. Ti guarderai allo specchio e non ti riconoscerai. I giorni semplici ma felici rimpiangerai. Coi soldi compri tutto, non la serenità. Ora ti manca da morire, ma non tornerà. Ti guarderai allo specchio e non ti riconoscerai. Forse solo allora capirai tutti quei discorsi che ti sembravano immaturi. Preferivi scenari più sicuri. Uscire dallo schema, quello in cui viviamo è l'unico possibile sistema. Su questa strada non c'è consentito fare inversione. Ti hai fregato se hai sbagliato direzione. Tutti i tuoi finti amici ora dove sono? Vorresti chiedere aiuto, a tutti perdono. Ma questa è la realtà, quando non sei nessuno l'avevi scordato perché eri numero uno.